È quasi la struttura che determina il contenuto dei legami. Ok? Con l'aggiunta del terzo nodo si ha un arricchimento sociologico molto importante, fondamentale, perché se muore un legame tra questi due soggetti, di per sé non muore anche complessivamente il network, permanendo i legami tra gli altri due. Ok? Cioè, è dotata di unità suprapersonale. Io non penso che possa dipendere dall'intensità dei legami, l'equilibrio strutturale, penso proprio che siano due cose diverse, perché questo è, per quanto possano essere forti e intensi questi due legami, non è detto. Questo è comunque negativo, questo è comunque un legame negativo, e quindi è peggio che c'è un legame negativo. Anzi, secondo me io la vedrei al contrario, cioè se questi legami sono molto forti, la pressione di ciascuno di questi due nodi, diciamo, a rompere il legame con l'altro, pressione che fanno verso le due, sarà ancora più alta, sarà ancora più intensa, sarà ancora più forte. Guardi che è tipico, secondo me, delle, diciamo, delle discussioni in ambito familiare, una situazione di questo tipo, dove i legami sono molto forti. Salve. Intanto si affaccia qualcuno e ci osserva. Ok? Se ci limitiamo al discorso strutturale, direi che probabilmente anche, diciamo, dal punto di vista delle probabilità, è più probabile che un nodo modifichi il suo orientamento piuttosto che lo faccia, dopodiché può succedere tutto. Cioè, tenga presente che se c'è un operatore che in qualche modo guarda e favorisce e governa la rete, può trovare mille modi, mille espedienti perché questo legame si torni ad essere. Io non sto dicendo che sia meglio farlo diventare negativo un altro, attenzione, non sto dicendo questo, quello che sto dicendo è che però una situazione di questo tipo è difficilmente gestibile da un lavoratore rispetto a una situazione di totale equilibrio. Però M2, se vuole, se potrebbe influire sia su M1 che su M3 per far sì che il legame tra M1 e M3 possa tornare positivo. Sì, però deve fare pressione su due, perché la posizione, d'accordo? Ok, qui invece uno, due faranno pressioni su uno soltanto per rompere un legame, è diverso, capisce? Può succedere, d'accordo, però noi possiamo intervenire, se abbiamo qualche margine, come operatore, per esempio favorire... Allora, è la situazione dei tre fratelli fondamentalmente, che due vanno d'accordo, quello centrale va d'accordo con tutti e due, mentre tra gli altri due non vanno d'accordo. Questa è una cosa, no? È familiare. Ah, sì, è un esempio. No, pensavo che ci fosse tipo un detto. Tra fratelli, dove si prende uno come riferimento di intermedio, però due non si parla, con l'intermedio fa un po' da catalizzatore degli altri due. Esatto. Va bene. In ogni modo, diciamo che ci possono essere molti modi per trasformare un legame negativo in positivo, favorire le occasioni di interazione, un coinvolgimento comune in qualche attività, insomma, dopodiché o si trasforma in positivo, magari si ammazzano tutti e due, però se si frequentano un po' troppo, però ci possono essere dei modi per favorire questo. Di certo è una situazione che va tenuta sotto controllo. Bene, il grafico esatto. In questo tipo di grafo le linee possono assumere un peso, quindi abbiamo, come nel caso dei segni, un terzo raggruppamento di oggetti, di caratteristiche, di qualità, che sono appunto i pesi che possiamo attribuire alle linee. Se il grafo è un grafo pesato non diretto, facciamo un esempio di grafo pesato non diretto. Io vengo sempre da lei per gli esempi, mi rispondo sempre da lei. Un esempio di grafo pesato non diretto. Forse gliel'ho chiesto perché l'ha fatto anche ieri un esempio di questo tipo. Beh, dica. Sì, è il peso del legame. basta mettere 2+6 intensità della multiplicità. Sì, sì, un esempio concreto. Di relazione concreta. Un esempio di relazione concreta. Sì, certo, basta mettere. Cioè, nel senso basta mettere un 6. Praticamente metteremo il numero. Qua dentro mettiamo il 6. Qua possiamo mettere un 3, 2, e qua? 1. Ok, questo potrebbe essere qualcosa che per esempio vale all'interno del range dei giorni della settimana 07. Quante volte, durante quanti giorni hanno lavorato assieme questi soggetti, d'accordo? E questo è un esempio di grafo pesato e non diretto, d'accordo? Se invece gli chiediamo di dirci quante volte N1 ha visto N2 nell'arco della settimana. E anche questo non è non diretto, No. A meno che l'altro non si sia chiuso gli occhi mentre si vedevano. Se c'è una differenza nella raccolta dei dati. Quante volte N1 ha dovuto chiamare per un intervento N2? Ottimo, questo è un ottimo esempio. Quante volte, oppure quanti giorni, se vogliamo controllare, nel corso di quante giornate hai dovuto mai contattato e non risponde? 3. E l'altro 1. 6 e 4. Di nuovo 1 e quest'altro 5. Ok? E questo è un esempio di grafo pesato ma anche diretto. Ma un esempio più semplice può essere più semplice. Un esempio particolare potrebbe essere quello della scala da 1 a 10, quanto ti trovi bene con, dove 1 è per niente e 10 è moltissimo. Allora, N1 dice mi trovo bene a 5, l'altro 4, eccetera, eccetera. Ok? Questo era l'esempio che facevo prima, per dire che potremmo avere, diciamo così, per esempio, voi potreste trovare dei valori che per alcuni tipi di legami pesati sono molto elevati e per altri invece sono molto bassi. In una stessa scala, una scala da 10, ok? E avete il problema di fare la sintesi, ok? Se una scala è molto bassa rispetto all'altra, è chiaro che non vi consentirà di vedere le eccellenze all'interno di questa scala. Una volta che voi la sintetizzate con l'altra, tenderà semplicemente ad abbassare il livello dell'altra, ok? In quel caso conviene, l'esempio che facevo prima, conviene trasformare queste grandezze nella loro versione in termini di deviazione standard. Questo può essere utile. Ma adesso sapete cosa faccio? Mentre voi vi pigliate il caffè, tanto sono le 4:35, io preparo un foglietto di calcolo nel mio computer, poi voi vi avvicinate e vi faccio vedere come una variabile su 10 casi, 1:10, di punteggio si trasforma in una versione standardizzata. Va bene? Okay. Se ne avete voglia, vero? Se pensate che possa essere utile senz'altro. Come? Utile senz'altro. Solamente che sull'Apple le serve il cavo per il monitor. Sì, questo.